Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Futura sta per Focused Ultrasound Therapy Using Robotic Approach, che sarebbe per terapia ultrasuoni focalizzati usando un approccio robotico. Parliamo di un robot chirurgico sul quale si stanno riponendo molte speranze, soprattutto per quanto concerne il trattamento di alcuni tumori, come il tumore al rene e al fegato, che interessano i tessuti molli. Futura è un progetto europeo finanziato con 3 milioni di euro e coordinato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, in particolare da Arianna Menciassi, che alla Scuola Superiore di Pisa insegna robotica biomedica e che è in linea con noi. Menciassi, buonasera. Salve, buonasera a tutti. Senta, noi siamo già abituati in realtà a vedere utilizzati gli ultrasuoni in medicina, ma a scopo diagnostico, come succede per esempio nell'ecografia. Qui invece parliamo di distruggere delle formazioni tumorali all'interno del corpo umano, più o meno come si fa con altre tecniche di lotta contro i tumori, che però fanno uso di radiazioni ionizzanti, come per esempio i raggi X o addirittura i cosiddetti neutroni. Ecco, allora, Menciassi, io partirei da qui e quindi le chiedo come vengono in questo caso invece usati gli ultrasuoni e che vantaggi offrono rispetto a tecniche come quelle che citavo. Sì, come ha detto giustamente lei, siamo abituati all'uso di ultrasuoni per scopi diagnostici. Ormai una ecografia non si nega a nessuno. Sì. Gli ultrasuoni però di fatto sono delle onde meccaniche, quindi essendo delle onde meccaniche possono trasportare energia. Se questa energia si riesce a focalizzare in una zona specifica del corpo umano, anche profondamente all'interno del corpo umano, con una sorta di lente meccanica, un po' come la lente per la luce che può far bruciare il filino d'erba se focalizzata in un punto preciso, ecco, se riusciamo a fare la stessa cosa con delle lenti per ultrasuoni, si può depositare in una zona precisa del corpo umano un'alta quantità di energia, quindi di calore, e portare alla morte cellulare o alla necrosi di piccoli tessuti. In realtà poi quello che succede a livello proprio biologico quando entrano in contatto queste onde meccaniche estremamente focalizzate e i tessuti è molto complicato, ci sono fenomeni di rottura, anche di probabilmente rottura di membrane cellulari, succede, è complicatissimo, però di fatto queste cellule se la passano molto male a quel punto. Infatti se la passano molto male, e quello che il punto dove si deposita l'energia, che fra l'altro non è un punto matematico, una zona fatta in genere a sigaro, 3-4 mm di diametro, 7-8 di lunghezza. Va incontro a necrosi. Questo se nella traiettoria dal trasduttore, cioè dal generatore dell'onda meccanica al tessuto target, cioè al tessuto che deve morire, diciamo così, non ci sono ostacoli. Questo è poi se no queste onde vengono riflesse e così via, diventa ancora più complicato. Senta, ma perché gli ultrasuoni e non i raggi X o altre, o i neutroni o altre radiazioni di altro tipo? Gli ultrasuoni, come dicevo all'inizio, un'ecografia non si nega a nessuno, perché l'ultrasuono è una specie di farmaco senza controindicazioni, non si tratta di radiazione ionizzante. Fra l'altro l'utilizzo di terapia ultrasuoni sotto guida ultrasuoni, come facciamo noi in futura, si può utilizzare su bambini, per esempio. Sappiamo benissimo che quasi tutte le forme, diciamo, le terapie anticancro hanno pesantissime ripercussioni sulla salute. Le persone, sia che parliamo di chemioterapia, sia che parliamo di radioterapia o robe di questo genere. Senta, invece, perché un robot? Perché serve un robot per fare questa operazione? Serve un robot per somministrare questi ultrasuoni, perché una terapia può essere precisa e accurata solo se esiste precisione e accuratezza anche nella somministrazione, cioè se il trasduttore è capace di generare un'onda meccanica molto focalizzata. Certo. Ma se il trasduttore lo muovo con il tremore della mano, chiaramente la precisione si perde. E poi c'è un altro aspetto molto molto importante, che è collegato a quello che le dicevo prima: riuscire a focalizzare gli ultrasuoni anche superando delle barriere meccaniche, per esempio passando tra le costole dell'addome, del torace, e inseguendo gli organi. Il nostro sistema ha la possibilità di fare, come si dice in gergo, un tracking dell'organo durante la respirazione, e quindi poi di focalizzare utilizzare l'energia solo nel momento giusto. Quindi insomma, se si vuole la precisione che serve, serve la mano di un robot, la mano di un uomo non è in grado né di reagire a questi cambiamenti né di avere la precisione necessaria. Addirittura so che poi Futura impara, perché intanto usa l'ecografia per guardare quello che sta facendo, si aggiusta, capisce come migliorare la somministrazione dell'energia e così via. Senta, prossimi step, mi vorrei concludere con questo: quando lo vedremo questo oggetto nelle sale operatorie? Spero non di persona, naturalmente. Allora, nel giro di un anno avremo fatto i test preclinici. Test preclinici significa su grandi animali oppure su anatomia umana. Dopodiché parte il periodo della certificazione e tutto dipenderà davvero dai capitali che uno riesce a mettere a disposizione. E quindi speriamo che ne troviate tanti. Grazie Arianna Menciassi. Sì, grazie, buonasera a tutti. Va bene, ci fermiamo qui e ci risentiamo domani. Buona serata. Audi ti aspetta su audiinnovativethinking.it, la piattaforma delle idee e delle persone che aprono la strada al cambiamento.